Rosciani e Meazza, buongiorno. Sono un ascoltatore di valore planetario e adesso più che mai in questo periodo nelle mie vene scorre più Radio 24 che sangue. Bravi, buon lavoro e buona giornata da Stefano. Due di denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Chissà, chissà, domani, su che cosa metteremo le mani. Se si potrà contare ancora. Cara Deborah, buongiorno. Cominciamo con questa atmosfera romantica per accompagnare gli ascoltatori e le ascoltatrici, soprattutto verso il fine settimana, immagino. Questo, o c'era un altro motivo per cui hai richiesto all'ottimo Marco Lombardo questa canzone? Ma no, dai, c'è anche l'altro motivo, oltre al piacere di ascoltare questa canzone. Ti sei alzato piuttosto, in segno come sempre di celebrazione? Guarda, c'è stata una ola praticamente, dall'altra parte del vetro anche, c'è stata tutta una sorta di ovation collettiva, di qua e di là dal vetro. Dicevi, allora, perché hai scelto Futura? Abbiamo ripreso Futura di Lucio Dalla perché proprio in questi minuti a Roma al Ministero dell'Economia viene presentata la scheda informativa del BTP Futura, il primo titolo di Stato unicamente destinato ai piccoli risparmiatori. C'è questa emissione, lo ricorderete, ne abbiamo già parlato, dal 6 al 10 luglio. È una emissione speciale come il BTP Italia, di cui abbiamo parlato nelle ultime settimane, destinato a finanziare le spese per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'epidemia Covid-19. Stamattina, in questi minuti, viene presentata la campagna informativa, diciamo, che accompagnerà tutta l'operazione, ma soprattutto dovrebbero essere dati a breve anche dei dettagli tecnici su questa operazione. Credo che l'informazione più importante che ci aspettiamo, Mauro, è la durata. Sarà un BTP di durata abbastanza lunga, fra gli 8 e i 10 anni, ma ancora non è stato alzato il velo su questa notizia. Lo scopriremo solo vivendo e solo parlando. Per passare da un grande della musica italiana a un altro grande della musica italiana, quindi con questa citazione. Allora, siamo pronti naturalmente a dare in diretta subito in anteprima mondiale, come nostro costume, almeno qualche dettaglio del BTP Futura non appena lo apprenderemo appunto dalla conferenza stampa in corso. Oggi però parliamo tra le altre cose di due cose sostanzialmente: una sortita sul bonus bicicletta, perché abbiamo di nuovo disturbato l'uomo che conosce il codice della strada meglio del codice della strada stesso, cioè Maurizio Caprino, che ci spiegherà come funziona questo benedetto bonus. Di là dal vetro il rassicurante Carmelo Lauricella scuote la testa, come dire, a saperlo come funziona ascolterò anch'io, e dietro di lui l'affascinante Laura Faggi, naturalmente, che ringrazio. Non mi vorrei mica dire che Carmelo è pronto a curarsi la bicicletta, perché questa è veramente la notizia dell'anno, eh? Ma scuote la testa, non ti saprei dire, forse il monopattino elettrico, ma forse è per un congiunto, sai, per un congiunto, un parente stretto o un acquisito, non saprei bene dirti. Bene, bene. E però parleremo nella seconda parte della trasmissione, cioè dopo le 11.30, faremo il punto su una cosa di cui, secondo me, Deborah, tu ti sei già dimenticata e magari anche diversi ascoltatori e ascoltatrici. Cioè, ti ricordi che una volta esisteva il bonus per i diciottenni, il 18 up, che davano 500? Ma c'è ancora in realtà, non è che è scomparso con la pandemia, però insomma bisogna un po' capire a che punto stiamo. E allora abbiamo scomodato una collega che se ne è occupata a più riprese, è tornata a occuparsene per noi, l'avremo nostra ospite, si tratta di Valeria Uva, dalle 11.30 in avanti. I numeri di telefono li ricordo subito, così ci togliamo il pensiero, cara Deborah. 800240024 è il numero verde per intervenire in diretta. 349-238-6666 è invece il numero per inviarci sms o messaggi via WhatsApp, quindi anche messaggi vocali. Abbiamo anche una casella di posta elettronica, come tutti i bambini, 2didenari@radio24.it. E in ultimo ti voglio dire, Deborah, oggi venerdì ritornerà il sonetto con una sorpresa. Non voglio anticipare nient'altro, poco prima della viabilità ridaremo la stura al sonetto. Entrati in questa fase la fase boh, insomma, in cui ci troviamo, ecco, ripartiamo con il sonetto, almeno un segno di ripartenza anche questo nel nostro piccolo. Deborah, che vuoi fare ora? Io farei il giornale radio del risparmio, perché stamattina Marco Lombardo ce ne ha fatto uno che non so se riusciremo a dire tutto, per cui direi di sbrigarci anche, via! Ta-na-na-na, na-na-na-na. Amore, i soldi, ta-na-na-na-na-na. Allora, la prima notizia, caro Mauro, la possiamo dare anche grazie ad una mail fresca fresca che ci ha scritto un ascoltatore, Maurizio, che è un po' impermalito per il fatto che la grande compagnia di bandiera italiana, Alitalia, ha interrotto i voli con lo scalo di Trapani e a lui è stato cancellato un volo che avrebbe dovuto fare prossimamente, ma da quello che capisco Maurizio lamenta il fatto che la compagnia non gli vorrebbe restituire il pagamento, appunto, sostenuto per questo volo. Sostanzialmente non si riesce a mettere in contatto con la compagnia. Io, prima di dire che cosa dice l'ENAC, l'ente dell'aviazione civile italiana, su questi casi, volevo anche parlare di un'esperienza personale. È effettivamente un po' complicato entrare in contatto in questo momento con Alitalia, anche con i canali offerti dalla compagnia per dialogare con sostanzialmente il cosiddetto customer service, ma in realtà loro con calma accontentano tutte le richieste di tutti coloro che hanno bisogno di rimodulare la loro situazione o rinviare un viaggio e quindi prendersi il voucher eventualmente per fare il medesimo viaggio ma magari in un altro momento rispetto alla data programmata, oppure chiedere il rimborso. Chiedo quindi a Maurizio un pochino di pazienza e magari ci faremo noi direttamente intermediari e mediatori di questa conversazione con la compagnia. Ma alla compagnia, come a tutte quelle a livello mondiale, in questo periodo stanno arrivando milioni di richieste di rimborso e quindi è anche abbastanza, come dire, naturale immaginare che si faccia un po' di fatica ad ottenere una risposta immediata. Questo però non giustifica l'operato delle compagnie se non si fanno trovare. E l'ENAC dice delle cose molto chiare, Mauro, mi pare. Eh sì, perché c'è, ad esempio, l'ENAC ha richiamato al regolamento di tutela dei passeggeri per voli cancellati per motivazioni non Covid. La normativa prevede il rimborso del biglietto, non l'erogazione di un voucher. Poche ma sentite parole, verrebbe da dire, perché appunto le restrizioni alla circolazione delle persone all'interno del territorio italiano oramai non ci sono più, nell'area europea sono state ugualmente rimosse, quindi se ci sono dei voli cancellati in questo momento non possono essere, sostiene l'ENAC, spiega l'ENAC, attribuiti più alle limitazioni motivate dalla pandemia. Però se il nostro ascoltatore Maurizio, visto che aveva un volo interno, un volo nazionale, volesse utilizzarlo per andare in vacanza, lo invito a leggere a pagina 37 di oggi, pagina di norme e tributi naturalmente, perché riepiloghiamo il funzionamento del bonus vacanze. Vi abbiamo segnalato già ieri, appunto, che c'è questo provvedimento delle entrate, c'è una guida delle entrate, oggi un anche utile riassunto sulle pagine di norme e tributi del Sole 24 Ore, cara Deborah. Bene, Sole 24 Ore che mi pare di capire oggi sia uno di quelli che tu definisci i numeri da collezione, perché c'è anche una sintesi molto interessante sulle bonus al 110% per i lavori in casa, lavori importanti in casa, se si vuole ottenere questo incentivo fiscale molto generoso riconosciuto appunto da qualche tempo, anzi riconosciuto in prospettiva perché ancora non ci è arrivato un bel nulla dallo Stato, appunto, per i lavori di manutenzione straordinaria della nostra abitazione, lavori che in particolar modo qualificano la casa facendole fare due gradini in su di efficienza energetica, nella sostanza, Mauro. Esatto, ma tutto questo sarà ulteriormente chiarito martedì prossimo, quindi ad esempio anche Leonardo Manera, che ha questo problema di caldaia, potrà collegarsi dalle 9 a mezzogiorno, perché c'è uno telefisco speciale che è tutto dedicato alle misure fiscali post-Covid, per dir così, cioè le misure per il rilancio. Tra queste misure, naturalmente, oltre a esserci tutte le misure che riguardano il lavoro e i lavoratori, c'è anche il bonus del 110%, ci sono i finanziamenti alle imprese e così via. Dalle 9 alle 12, se volete saperne di più, vi rimando al sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com/, cioè la sbarretta, quella lì un po' obliqua, telefisco-alto-rilancio, ma trovate tutto anche partendo dalla home page del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com. Martedì, per lo speciale telefisco, lo ricordo anche simpaticamente a Leonardo Manera per la sua caldaia. E ho appreso stamattina, poco prima di collegarmi con te, sono stato coinvolto, mio malgrado, anche da uno nessuno 100.000, ho appreso che Manera ha anche un problema con un Velux, con una di quelle finestre appunto al soffitto, che evidentemente ha una perdita, un'infiltrazione, quindi può chiedere a Telefisco martedì prossimo anche per questo aspetto qui se gli spetta qualche sconto fiscale. Molto bene. Senti Mauro, ti ricordi che qualche giorno fa l'azienda ci ha chiesto di condurre lì in auditorium questo bel evento sul welfare aziendale, sul mercato del lavoro, eccetera? Pare che siamo piaciuti, così l'azienda ci ha chiesto di condurre un altro evento sempre con le stesse modalità. Quindi, cortesemente, dovresti venire con me martedì 30 giugno dalle 15 alle 17, sempre in auditorium al Sole 24 Ore, dove ti offro questa imperdibile opportunità di condurre la Digital Round Table Investire Informati. Ah. Sai che tutti i giovedì io e te abbiamo un impegno Investire Informati, certo, impegno radiofonico. Questa volta invece è di martedì. E non è in radio, esatto, se capisco bene. E non è in radio, esatto. Allora, noi saremo in auditorium con 4 ospiti fisici, quindi vedi che pian piano torniamo alla normalità. Però tutti coloro che vorranno seguirci, anziché raggiungerci al Sole 24 Ore, potranno seguirci online sul sito di Radio 24, nella sezione iniziative speciali. Peraltro già c'è la possibilità di iscriversi all'evento e poi quel giorno potrete seguirci. Di cosa parleremo? Naturalmente dei temi che sono più cari alla rubrica del giovedì Informati: come investire, dove investire, come ripartire dopo l'emergenza Covid, come mettersi al riparo da altre emergenze, come pianificare al meglio l'impiego dei nostri risparmi. Insomma, lo shock è stato importante, quindi dovremo anche un po' ripensare alla nostra vita di risparmiatore e di risparmiatori ed investitori. Ci aiuteranno intanto 4 grandi case di investimento: AXA Investment Managers, PIMCO, Banca Mediolanum e JP Morgan Asset Management, ma ci saranno con noi anche le istituzioni finanziarie, ANAS, l'Associazione dei Consulenti Finanziari, a suggestione ci sarà con noi anche Anna Maria Lusardi, direttore del Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria. Quindi appuntamento martedì 30 giugno dalle 15 alle 17, Investire Informati, che diventa live dall'auditorio del Sole 24 Ore. Allora adesso me lo segno perché ci avevo giudo ma lo sposto. Se volete informazioni ulteriori, il sito di Radio 24, sezione iniziative speciali, proprio in home page www.radio24.it. Una cosa invece te la voglio segnalare da IKEA come ultima notizia. IKEA ci ha scritto ieri perché abbiamo detto che hanno in diversi paesi deciso di restituire i fondi che avevano ricevuto dai governi. Abbiamo citato i paesi, non compariva l'Italia. Allora IKEA Italia ci ha scritto, il comunicato stampa non era da montare, cioè non ce l'hanno dato con i bulloni e le brugole, e invece ci hanno detto che hanno deciso di sospendere anche in Italia la procedura di accesso ai fondi per la cassa integrazione, fondi che erano stati inizialmente richiesti. Inoltre, scrivono sempre da IKEA Italia, nei casi in cui i nostri coworker in cassa integrazione non abbiano ricevuto piena retribuzione negli scorsi mesi, ci impegniamo a coprire retroattivamente la differenza. E se poi alcuni dei nostri coworker non dovessero essere in grado di tornare al lavoro, IKEA continuerà a garantire loro l'intera retribuzione fino al completo rientro. Una decisione, spiegano, che è stata presa a livello internazionale in tutti i paesi in cui sono previste o sono state chieste forme di supporto al reddito. Questo perché, appunto, secondo IKEA Italia, noi in questo momento le emergenze più dure sono state superate, la fase più dura è stata superata, e quindi si può cominciare a guardare con maggiore ottimismo per una ripresa. Tanto ci hanno scritto, li ringraziamo per l'attenzione con cui hanno seguito anche loro Due di Denari. Deborah, c'è Dillo a Due di Denari e poi andiamo a parlare del bonus biciclette di Autostrade con Maurizio Caprino. Bene, pronti. Dillo a Due di Denari. Io desideravo chiarimenti sulle mascherine acquistate prima del lockdown e ora, sia sulla detrazione fiscale sia sulla forma di pagamento, perché non riesco a capire se si possono detrarre e quant'altro. Grazie. Mi pare che l'Agenzia delle Entrate abbia diramato delle notizie a tal proposito. Sì, ha diffuso la circolare 11. Essendo il tuo mondo, ti lascio. No, allora c'è la detrazione, ma riguarda soltanto, quindi ricordiamo, è uno sconto, quindi si potrà ridurre l'IRPEF. La detrazione è quella canonica delle spese sanitarie, il 19%, però con una franchigia, cioè una quota che non viene conteggiata, di 129,11 euro. Quindi praticamente la detrazione comincia quando avete speso più di questa cifra. E riguarda però solo le mascherine, quelle praticamente da 60 centesimi, insomma le chirurgiche. Naturalmente serve sempre il pagamento con scontrino parlante, se le avete, come presumibilmente avete fatto, acquistate in farmacia. E poi serve anche che le mascherine acquistate abbiano il bollino CIE. Quindi tutto quanto sulla circolare 11E dell'Agenzia delle Entrate, ne abbiamo parlato qualche volta anche qui a Due di Denari. E adesso andiamo al primo tema della settimana. Dove eravamo rimasti? Sempre lì, Mauro. Eravamo rimasti che non c'era l'applicazione per fare la domanda per il bonus bici, e lì siamo rimasti, mi pare. Ah, non lo so, guarda, chiediamolo a chissà. Maurizio Caprino, bentornato a Due di Denari. Scusaci, noi di tanto in tanto bussiamo alla tua porta e chiediamo lumi. Buongiorno, Maurizio. Buongiorno a tutti. Niente, chissà, io dovrei sapere, però in realtà non so perché non si sa, in quanto il Ministero dell'Ambiente non ha ancora messo nero su bianco, anzi non ha ancora ufficializzato tutte le regole. In realtà nero su bianco le ha messe, c'è una bozza che abbiamo anticipato il Sole 24 Ore, ma ormai due settimane fa, ma siamo rimasti a questa bozza, e quindi riterrei che la partita decisiva si giochi ormai in luglio, come d'altra parte era stato anticipato. Quindi al momento l'unico consiglio che si può dare è acquistare, ma acquistare facendosi rilasciare una fattura, attenzione, una fattura, ho detto, perché lo scontrino non vale, e potrebbe essere anche difficile ottenerne uno, ottenere la sua cancellazione e ottenere una fattura a posteriori, come ci ha spiegato sul Sole sempre il nostro esperto Benedetto Santa Croce. E niente, poi nel frattempo armatevi di SPID, della cosiddetta identità digitale, perché serve, quello è assolutamente confermato. Quindi tutti pronti e soprattutto allerta, noi vi daremo ovviamente notizie tempestivamente, dico allerta perché i fondi rischiano di terminare subito. Anche su questo c'è un po' di incertezza, perché il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha detto che ne stava cercando degli altri, ha detto in Parlamento di aver trovato altri 70 milioni, però insomma siamo sempre su cifre piuttosto basse rispetto al fortissimo interesse che si è registrato, ed è un fortissimo interesse dovuto anche al fatto che sono incentivabili anche i monopattini. Questo nonostante, che però è curioso questo fatto, perché il monopattino, tu hai spiegato, in realtà è un mezzo ancora un pochino così in attesa di classificazione, verrebbe da dire. Assolutamente sì, perché ci sono delle regole in vigore dal 1 marzo che lo equiparano per molti versi alle biciclette, però attenzione, perché sono regole sperimentali. Era una sperimentazione che era stata decisa alla fine del 2018, doveva durare un anno, poi è stata estesa di un ulteriore anno, per cui se oltretutto i dati che cominciano ad affiorare, che vedono i primi incidenti, di cui uno mortale, insomma, sull'uso dei monopattini, quindi se questi dati dovessero considerare di tornare indietro, c'è il rischio che di dare un bonus statale di fronte a un anzi per acquistare un mezzo che poi dovrebbe essere teoricamente, che si dovrebbe tornare che non si a sa ancora in discussione, insomma, certo. Ecco, potrebbe finire anche fuori legge e dire abbiamo scherzato, scusate. Allora, gli acquisti agevolabili, sì. Prego Deborah, chiedi pure. No, volevo, sì, no, il tema della data, sono gli acquisti agevolabili, quelli che sono stati fatti dal 4 maggio scorso, perché ricordiamo è stata la data a partire dalla quale abbiamo avuto il primo allentamento dopo il lockdown, e quindi intanto attenzione, chi avesse comprato prima magari non potrebbe aderire a questo bonus, ma difficilmente immaginiamo possa esserci qualcuno che ha fatto l'acquisto precedente quando c'erano tutti i negozi chiusi, ma magari qualcuno, Maurizio, ha fatto un acquisto online, perché già qualche ascoltatore chiede qualcosa in questo senso. questo vale il documento di pagamento, vale il documento, che è l'unico modo per dimostrare in maniera inoppugnabile l'avvenuta transazione, perché qui stiamo parlando non di mezzi targati come può essere un motorino, un'auto, una moto, e quindi direi che vale proprio la data del documento di pagamento, insomma. Io mi inserisco, Deborah. Allora, abbiamo capito che per il bonus biciclette dobbiamo attendere e conservare la fattura. Attenzione, la fattura. Invece, un'ultima cosa, in un minuto. E farsi l'identità digitale, SPID, perché altrimenti non si può accedere appunto alla piattaforma del Ministero dell'Ambiente per fare richiesta del bonus. Ma l'abbiamo detto fino allo sfinimento, speriamo che gli ascoltatori se lo ricordino. L'identità digitale. L'ultimo minuto, Maurizio, per le autostrade, perché tu avevi scritto nel marzo scorso che c'era un rischio di una stangata delle tariffe in estate. Siccome non sarebbe la prima volta che succede, ci riassumi per favore a che punto siamo? Allora, la stangata deriva dal fatto che ormai sono 2 anni che vengono congelate queste tariffe, è una cosa che normalmente il Ministero delle Infrastrutture presenta come una grande vittoria, ma in realtà sono solo congelamenti, sono rincariche, quindi restano ad attenderci al varco. Questo varco potrebbe aprirsi appunto in estate, perché lo prevede tutta la complessa procedura prevista dal milleproroghe, in cui c'entra anche la famosa o famigerata revoca nei confronti di Autostrade per l'Italia. Questa della stessa partita fa parte il nuovo sistema tariffario previsto dall'autorità di regolazione dei trasporti, che taglia i profitti a tutte le concessionarie autostradali, quindi non solo ad Autostrade per l'Italia. Queste concessionarie quindi dovrebbero accettare questo piano dell'autorità, su cui invece hanno fatto ricorsi al TAR. Quindi bisognerà vedere se si andrà avanti con questo contenzioso, se invece lo accetteranno verrà tutto sbloccato, ma come sempre rischiamo un'ulteriore proroga, perché poi politicamente non è molto opportuno far partire una stangata anche in questo periodo, diciamo così, esatto. Quindi italico rinvio. Va bene, allora resterete in contatto con noi. Noi a nostra volta resteremo in contatto con Maurizio Caprino, come sempre la fonte più autorevole per le materie, per queste materie legate appunto al codice della strada, alla viabilità e adesso anche ai bonus. Cara Deborah, si è fatto tardi, è il momento delle borse. Ho apprezzato particolarmente il sapiente uso dell'enjambement. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di denari. Buongiorno, sono Gianfranco. Cortesemente volevo sapere se nel sito dell'Agenzia delle Entrate si possono già avere le direttive riguardo il famoso bonus del 110%, grazie. Non ancora, perché ancora il bonus del 110% è in discussione, verrà sicuramente cambiato nella conversione in legge del decreto legge 34, e quindi il Parlamento darà le modifiche e da lì in poi partiremo per le richieste. Maggiori dettagli martedì prossimo nel corso dello speciale, del telefisco speciale, che è in programma dalle 9 alle 12. Potete anche seguirlo poi in differita se volete invece seguire a quell'ora Due di denari. Cara Deborah, sono andato velocissimo, sì, perché voglio dare il bentornata alla collega Valeria Uva. Bentornata Valeria. Grazie, buongiorno a tutti. Devi sapere, Deborah, che Valeria Uva è un po' suo malgrado la maggiore esperta del bonus per i diciottenni. Sì, che... ogni tanto capitano queste cose strane, no? Che ti capita di occuparti per una volta di una notizia, di un approfondimento, dopodiché diventa tuo per tutta la vita. In questo caso a Valeria è toccato evidentemente questo. Tra le molte cose di cui si occupa c'è anche, esatto, questa specializzazione. Valeria, ci fai un riassunto? Perché allora, se non ci siamo persi nulla, ma sai, abbiamo avuto delle settimane difficili ultimamente, ci sono ancora 2 bonus in corso, uno che è in attesa di decreto attuativo, l'altro che sarebbe operativo, però se ce lo riassumi tu io mi sento più tranquillo. Va bene, grazie. Allora sì, esatto, ci sono due bonus in corso, direi che le settimane difficili le ha avute anche il bonus cultura per i diciottenni, 500 euro per i diciottenni. Facciamo un piccolo riepilogo, intanto ricordiamo che cos'è, si tratta di appunto un bonus del valore di 500 euro che viene riconosciuto al compimento della maggiore età, in Italia è attivo dal 2016, i ragazzi possono spenderlo in cultura, ovvero cinema, musica, libri, soprattutto libri poi sono quelli che vengono più utilizzati, musei, danza, teatro, ma anche corsi di musica, di teatro oppure di lingua straniera. Perché dicevo settimane difficili anche per il bonus cultura? Perché il caso ha voluto che il bonus riservato ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2001 è partito nel 2019, perdona. Nel 2019, pardon, il bonus 2001 per i ragazzi nati che hanno compiuto 2001, 18 anni nel 2019, prego. Esatto. Questo bonus? Questo bonus di fatto non è quasi mai partito, nel senso che siccome c'è una forte tradizione di ritardo, perché ogni anno dobbiamo aspettare non soltanto la legge di bilancio che stanzia i fondi per i 500 euro, ma dobbiamo aspettare anche il decreto attuativo per farlo davvero partire, utilizzare dai ragazzi. Il decreto attuativo dei ragazzi del 2001 appunto è arrivato quest'anno il 5 marzo del 2020, quindi quando loro erano sì, in gran parte anche diciannovenni, ma soprattutto due giorni prima del lockdown, quindi di fatto è rimasto attivo solo due giorni e poi si è trasformato in un bonus virtuale, cioè l'unica cosa che hanno potuto comprare i ragazzi con questi 500 euro al momento sono stati libri e corsi, perché anche cinema, spendibile teatri, con e-commerce, quindi è anche spendibile come e-commerce. È spendibile con l'e-commerce, sì, è spendibile con l'e-commerce per gli esercizi convenzionati, che non sono poi molti, perché poi si può vedere dal sito www.18app.it. Al di là dei grandi colossi dell'e-commerce, da Amazon a Mondadori, le case editrici che si sono attrezzate per tempo, non c'è una ricchissima offerta per quanto riguarda l'online. Per esempio i corsi, io pensavo insomma proprio dopo questo periodo di lockdown che in molti tra gli esercenti si fossero iscritti, registrati alla piattaforma per offrire online, certo, questi corsi, eppure sono ancora, si contano sulle dita delle mani, diciamo. Sulle dita ma di secondo una te mano, Valeria, per quale motivo? Perché è un processo, come dire, complicato e farraginoso anche per gli intermediari, oppure perché non c'è interesse economico nel far utilizzare questo bonus? Qual è la motivazione per cui c'è questo ritardo negli accreditamenti, diciamo, oppure non so se è un ritardo o una resistenza anche a farlo? Credo siano un po' entrambi i motivi e ragioni. Per quanto riguarda gli accreditamenti, comporta una serie di procedure particolari anche di riscontro dei bonus per quanto riguarda gli esercenti. Si fa tutto tramite questo sito 18 app. Bisogna chiaramente essere un po' avvezzi alla tecnologia per registrarsi. Ci aggiungo anche un'altra cosa, Valeria, non so se tu hai la sensazione, scusami se ti interrompo, ma semplicemente no, perché mi è venuto in mente adesso vedendo un messaggio di un ascoltatore, forse non c'è neanche grande campagna informativa rispetto a queste iniziative, perché un ascoltatore sull'SMS adesso ci ha scritto: per i ragazzi nati nel 2002 che hanno fatto 18 anni quest'anno c'è il bonus, noi l'abbiamo appena detto, ma evidentemente proprio qualcuno non sa neanche dell'esistenza di queste opportunità. Sì, sicuramente. E poi allora, questi ritardi di partenza non giovano. Il bonus c'è per i ragazzi nati nel 2002, c'è, ma è solo anche questo un po' virtuale per il momento, nel senso che è stato riconosciuto, attenzione perché non sono più 500 euro, scendono a 300 per i ragazzi nati nel 2002. Per il resto le modalità sono le stesse, ma si attende il decreto attuativo. Come ogni anno si parte con molto ritardo, e quindi di fatto i diciottenni di quest'anno non possono ancora iniziare a spendere. Va detto però che dal momento in cui esce il decreto attuativo poi vengono un po', come dire, viene concesso più tempo, viene traslato, si va ben oltre il diciottesimo anno di età, anzi direi che questo sarebbe meglio chiamarlo bonus 19. per essere più coerenti. Ma allora vediamo, io sono contrario perché già c'è una cosa in giro con il numero 19 che ci sta dando un sacco di fastidio. Invece vi fermo entrambe perché, signore, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ritorna oggi il sonetto e per l'occasione ho chiesto a un amico, un attore professionista, di darne adeguata lettura. Per favore, Carmelo, il sonetto. Risalgono cigolando le serrande. Risalgono cigolando le serrande e s'abbandona infin la quarantena che su tutti i balconi e le verande avea all'Italia intera dato pena. Torniamo fuori a consumar bevande, distanti sì però alla pericena, sognando già di metterci in mutande per le montagne o qualche spiaggia amena. Libertà vo annusando, che sì cara come l'è caro il fisco che mi chiede d'abbandonar lockdown e dice drastico. Gli F24 or su prepara che nelle mie scadenze si procede e tu non t'attardar che trovi traffico. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus-free, dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo, innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni e aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. Due di denari. Cara Debora, che te ne è parso del sonetto? Mi è sembrato recitato in maniera estremamente professionale, naturalmente anche quando lo leggi tu è altrettanto valido e professionale, però devo dire che dalla voce di Lorenzo degli Innocenti effettivamente c'è, come dire, una marcia in più e quindi lo ringraziamo moltissimo per averci consentito con questa modalità così elegante di ripartire con i nostri sonetti del venerdì. Anche questo è un altro segnale di ritorno alla normalità, caro Mauro, ci piace molto questa strategia che ci siamo ridati, insomma, per riportare i nostri ascoltatori su due di denari pre-Covid. E tra l'altro posso anche anticiparti, cara Debora, che abbiamo diversi contributi inviati proprio dagli ascoltatori anche in queste settimane di lockdown e quindi li useremo via via nei prossimi venerdì. Adesso abbiamo però interrotto Valeria Uva, che ci stava spiegando il bonus, quello dei diciottenni per nel 2020, quindi nati 2002, i quali il bonus ce l'avranno, avranno tempo futuro, devono aspettare perché non c'è il decreto attuativo. E di solito la tradizione, se ho capito bene Valeria, di questo bonus per i diciottenni è che il decreto arriva l'anno dopo, cioè gli fanno a tutti compiere i 18 anni e poi qualche mese successivo arriva poi finalmente il decreto attuativo. Quindi, come dicevi tu, è il bonus più dei 19 anni. Ho capito bene? Sì, hai capito benissimo, Mauro. È proprio così. Di fatto è successo sostanzialmente in tutte le edizioni. Siamo alla quinta edizione, se prendiamo in considerazione appunto i diciottenni di quest'anno, quelli nati nel 2002. Molto spesso il decreto attuativo si è fatto attendere anche scavallando appunto l'anno in cui sarebbe dovuto essere varato. C'è da dire che all'inizio bisognava mettere appunto le modalità di utilizzazione, mettere in piedi un po' tutta la macchina, quindi un ritardo abbastanza comprensibile. In seguito, nelle edizioni successive, un po' meno. È vero che la platea, il perimetro anzi del bonus è stato allargato, perché appunto è stato esteso anche ai corsi di formazione, prima non erano inclusi, quindi di volta in volta c'era da aggiustare qualche cosina, però registriamo questo appunto come una costante, è piuttosto difficile acchiappare il bonus nell'anno in cui si diventa maggiorenni, ma ricordiamo che comunque viene poi dato un anno di tempo per spenderlo. Io, se mi consentite, ricorderei anche le date, queste sì, tassative, no, per i ragazzi invece del 2001, quindi bonus in corso, la quarta edizione. I ragazzi del 2001 hanno tempo fino al 31 agosto di quest'anno per registrarsi alla piattaforma, richiedere SPID, serve SPID, cioè l'identità digitale, e una volta ottenuto SPID occorre iscriversi sulla piattaforma www.18app.it. 18 è scritto a numero, scusami se l'ho preciso, e sì, app con due P finali, prego. Esatto. E poi hanno tempo per spendere il bonus, quindi per non perdere i soldi, entro il 28 febbraio dell'anno prossimo, 28 febbraio 2021. Questo per i nati nel 2001. Per i nati nel 2002, che non avranno più 500 ma 300 euro, bisognerà aspettare quando arriverà il decreto attuativo e da lì avremo le nuove date. Iscrizione alla piattaforma e utilizzo poi del bonus. Dimmi, fermami se sbaglio. No, no, corretto, corretto, assolutamente. C'è un'altra cosa da dire, che diciamo sui social si sta un po' sollevando la polemica, perché finora questo bonus, abbiamo detto bonus cultura, poteva essere speso soltanto per eventi culturali, cinema, musica, libri, eccetera, e fin qui è stato speso sostanzialmente per i libri. Per esempio nel 2019 su quasi 200 milioni di spesa totale, 130 sono andati per l'acquisto di libri, molti lo utilizzano anche per l'acquisto dei libri scolastici, universitari. Ecco, e con questo abbiamo risposto, Valeria, a un'ascoltatrice che ci chiedeva proprio questo, se era possibile comprare libri scolastici. Sì, è possibile, naturalmente. Sì, non ci sono limitazioni sul quali libri comprare, sono ammessi. L'importante è che l'esercente dove li si compra sia convenzionato con 18 app. Dicevo, molti ragazzi però in questo periodo di difficoltà, di lockdown e di didattica a distanza, hanno cominciato a chiedere di poter convertire, utilizzare questo bonus anche per l'acquisto di strumenti tecnologici, semplicemente del computer o del tablet, per poter continuare a seguire le lezioni online. Ecco, questo è un movimento che sta nascendo un po' sui social, non ha ancora trovato però un ascolto diretto da parte del governo. Ma sarebbe possibile? E allora facciamo, Mauro, che li sosteniamo noi magari, perché qua mi pare di capire che se la scuola, noi speriamo, riprenderà in maniera normale, ma anche abbastanza plausibile pensare che il prossimo anno scolastico magari per una parte potrebbe anche svolgersi in modalità da remoto con la didattica a distanza, e quindi supportare i ragazzi anche con una dotazione tecnologica adeguata, visto che abbiamo visto che i limiti di questa didattica a distanza in Italia sono stati proprio individuati nell'impossibilità di molte famiglie di avere dotazioni adeguate, quindi se si potessero sostenere in questa maniera forse sarebbe utile. Quindi noi sicuramente da parte nostra magari lo facciamo insieme a Maria Piera Ceci, che si occupa tanto di scuola, sarebbe interessante, insomma. Scusate, l'editoriale. No, certo, Deborah, ma infatti non c'è qualche speranza, Valeria? Abbiamo gli ultimi 20 secondi, che ci sia questa estensione, magari con il decreto attuativo? Bisogna cambiare un po' di cose, a partire dalla legge di bilancio, che è quella che ha stanziato i fondi, l'ampliamento dovrebbe essere contenuto recepito lì nella legge di bilancio, quindi bisognerebbe intervenire, bisogna che il Parlamento intervenga e faccia suo questo tema. E vedremo se avrà questa sensibilità. Noi intanto gliel'abbiamo ricordato, ve l'abbiamo ricordato. Cara Deborah, io ringrazio Valeria Uva, ringrazio anche te per la partecipazione a Due di Denari e ti informo che noi torniamo puntualmente lunedì prossimo. A lunedì, buon weekend a tutti!